sto vergognando, perché poi tutto sarà più semplice. Tieni a te tra le mille stelle e nuvole e cielo più su, vorrei sfiorando le mie fantasie insieme a te. Insieme a te tra le mille stelle vuole e cielo più su, vorrei sfiorando le mie fantasie solo con te. Tra le mille stelle vuole e cielo più su, vorrei sfiorando le mie fantasie insieme a te. Insieme a te tra le mille stelle nuvole e cielo più su,